Siamo con Andrea Staid per parlare del suo libro Abitare illegale, che sarà presentato venerdì 13 aprile alla Biblioteca Popolare in via San Tommaso d'Aquino 11A, BAZ. Andrea, benvenuto. Ciao a tutti e a tutte. Ce lo presenti brevemente? Sì, guarda, il libro è un'etnografia di quello che secondo me è un po' vivere nelle marginalità occidentali. Sono occupato di Occidente non perché io ne sia un fan, ma perché credo che non bisogna parlare soltanto dell'Occidente, insomma, quello delle banche, quello degli sfruttatori, quello dei predatori, ma che sia interessante invece anche parlare di chi nei margini ci sta per ricostituirsi, ripensarsi e cercare anche di produrre delle conflittualità istituenti. E in questo caso, secondo me, l'abitare illegale è proprio visto come riconcettualizzare il senso della casa per poter creare degli spazi condivisi che possono proprio ribaltare la dinamica sfruttato-sfruttatore. E quindi io mi sono messo a lavorare in questo ambito, prima di tutto per comprendere il senso della casa per l'uomo e poi per capire quali sono le sperimentazioni in atto fra Europa e Stati Uniti nel mondo non soltanto delle occupazioni, ma degli ecovillaggi, delle comuni, dei Wagenplatz, di quelli che sono le case autocostruite, i movimenti di autocostruttori contro i terremoti, contro la militarizzazione degli spazi. Quindi, insomma, analizzare un pochino tutto questo laboratorio di persone che per scelta o perché non hanno altre possibilità si ritrovano in un mondo dell'abitare illegale e informale, ma da lì partono per ripensare una nuova esistenza. Senti, avevi già in mente degli esempi precisi che diventassero oggetto della tua ricerca o è anche stata una scoperta in divenire? No, guarda, avevo ovviamente le case occupate dal movimento politico italiano, tedesco, spagnolo, insomma quello sicuramente, quindi i vari collettivi di persone che lottano per proprio il diritto alla casa e a uno spazio al di fuori della casa merce. Però poi in realtà oltre a questo io avevo pensato più che altro a fare un libro su queste esperienze un po' magari di comuni che vivono in mezzo alla natura, e poi invece è nato che facendo ricerca, intervistando le persone, ho conosciuto un mondo che in realtà non sapevo essere così vasto, perché l'abitare illegale anche soltanto in Italia è molto di più che quello che si può pensare a un primo sguardo, cioè quello delle case occupate di città. C'è veramente un mondo molto interessante. Per esempio, in Spagna una cosa che mi aveva colpito molto era tutta l'esperienza dei paesi occupati, delle collettivizzazioni agricole, come mi aveva colpito molto negli Stati Uniti tutto quello che è il movimento degli ex squatter di città che vanno a ripopolare i boschi, creando delle vere e proprie collettivizzazioni, costruendosi case sugli alberi. Insomma, diciamo che sono partito pensando di fare uno studio fra occupazioni di città e comuni di campagna, un po' sulla scia di Polmerico, di altri studiosi che negli anni 70 si erano occupati proprio di unire le lotte di città e le lotte di campagna, e poi mi sono reso conto che invece c'era un sacco di materiale interessante fino ad arrivare a ragionare e a pensare agli slum e alle baraccopoli dell'Occidente, perché una cosa che veramente mi ha colpito molto in questa ricerca, anche se sapevo che sono tante le persone che non hanno una casa, che non sono tante le persone che vivono in strada a Roma, a Milano, a Parigi, ma non mi aspettavo i numeri che poi sono andato a riscontrare anche con dei dati ufficiali, quindi come ben sappiamo probabilmente questi dati sono anche inferiori alla realtà, cioè che di persone che vivono abbaraccate in Europa, quindi persone che sono senza casa e che vivono in strada, sono per l'Unione Europea 256 milioni. È un numero veramente, insomma, in crescita, è un numero particolarmente preoccupante, perché 256 milioni comincia a essere una percentuale veramente su cui riflettere. Per i casi in cui invece si sono creati dei modelli extraurbani, per quello che mi dici, non è neanche esatto parlare di marginalità, perché insomma sembrano i semi di un progetto diverso proprio dell'abitare questo mondo. Sì, assolutamente, devo chiarire in effetti cosa intendo per margini. Margini non intendo marginalità, ma intendo proprio stiamo fuori da quello che è la società ufficiale, ci mettiamo nei margini per ripensarci e creare dei veri e propri laboratori sociali. Io sono convinto che le occupazioni delle case, soprattutto per come ho cercato poi di analizzarle io nella mia ricerca, non sono dei marginali, ma stanno nei margini di questo sistema e da lì ripartono come esempio proprio di bellezza, di possibilità e di giustizia sociale. Quindi margini come laboratori e non come siamo lì rinchiusi. Margini aperti, margini in transito, margini che possono creare delle differenze e delle possibilità. E oltretutto, come giustamente tu hai appena fatto notare, quelle che sono le sperimentazioni di campagna, e non dobbiamo pensare veramente al ghetto hippie di persone che si isolano, ma di persone invece che ripensano completamente il concetto di proprietà privata, di lavoro, di salario e che sono in contatto con i conflitti e con le lotte poi del nostro paese, in generale del paese in cui sono inserite, sono veramente esperienze importantissime che anch'io conoscevo molto poco prima di mettermi a fare questo studio. Oh, hai detto che sei rimasto sorpreso dall'esperienza spagnola dei paesi riabitati. Ecco, volevo chiederti se in questa tua ricerca quali esempi virtuosi ti hanno sorpreso. Ma guarda, in realtà ne ho trovati veramente tanti, anzi dirò di più, il libro quando io l'ho scritto in 3 anni, questo libro non ci ho messo tantissimo perché dovevo chiuderlo, dovevo consegnarlo e mi ha stupefatto perché a un certo punto quando stavo per finire il libro io avevo molte più cose da fare e da dire di quelle che pensavo. E questa ricerca potrà andare avanti anche nei prossimi anni perché sono veramente tante le esperienze belle. Per esempio, io non conoscevo la comune di Utopiaggia in Italia, la conoscevo soltanto per sentito dire e mi è piaciuta veramente molto come esperienza. Oppure un altro movimento che io non conoscevo era quello degli autocostruttori dopo il terremoto della Bassa Emiliana e anche lì ho trovato un sacco di consapevolezza e di pensare all'autocostruire come vero atto di resistenza politica contro la militarizzazione del territorio e contro la delega della costruzione con i finanziamenti dello Stato. Altra cosa che sicuramente mi ha colpito è il Blackwood Center in California, dove appunto, come dicevo prima, sono persone che autocostruiscono sugli alberi delle case e vivono in maniera completamente autogestita. Come mi hanno colpito anche molte esperienze legate invece, magari mi hanno colpito proprio anche come produzione di abitare alternativo in Europa, che sono sicuramente quelli del Tipiland di Berlino, che sono fra i pochi che sono rimasti nel mondo dell'abitare illegale a Berlino, perché come sappiamo tutte le occupazioni di quella città sono state un pochino ricondotte nei termini di una legalità di Stato con il processo di legalizzazione degli spazi, mentre il Tipiland è un accampamento di autocostruttori e persone che vivono in tende di Sioux ai bordi del fiume di Kreuzberg a Berlino e sono stato lì con loro, li ho conosciuti e poi nel libro ci sono anche delle foto e ne parlo perché è un'esperienza che magari io non ci andrei a vivere con loro, però molto interessante sul ripensare l'abitare. L'ultima cosa, so che sono stato un po' lungo in questa risposta, ma volevo dire che una parte centrale del testo è anche l'abitare dei Rom e dei Sinti, perché io ho scelto di fare un campo di studio in 3 campi, in 2 campi Rom, 2 villaggi Rom e uno Sinti, e lì ho scoperto un mondo al di fuori proprio anche dello stereotipo che molto spesso hanno gli attivisti, i compagni nel parlare di Rom e Sinti. Ho scoperto un mondo meraviglioso con i suoi difetti, con le sue differenze, perché i Rom e i Sinti non sono un blocco monoculturale, ma sono anche loro culture in transito e quindi al loro interno ci sono tante differenze, ma nei 3 casi che ho scelto di indagare ho scoperto cose molto interessanti sul pensiero della casa e sul pensiero dell'economia che c'è all'interno di un campo. Mi è capitato di recente di vedere anche un documentario che sulla scorta dei principi e delle teorizzazioni di un architetto alternativo negli Stati Uniti si sono create delle comunità, delle vere e proprie comunità, delle navi, in zone per lo più desertiche, con serre e impianti. Airship, Sì, fantastico. che e questo mi sembra un punto centrale, riescono a raggiungere, seppur in cifre non grandi, però una sorta di autosufficienza, e questo mi sembra appunto, dicevo, centrale. Sì, assolutamente. Infatti per me questo è il discorso dell'autonomia nei movimenti che io affronto, anche se di differenti spunti politici ovviamente, perché non è che c'è un monoblocco identitario nel mio libro, ma c'è proprio un atlante di tante possibilità e differenze con 2 punti fermi che sono quello per me dell'antifascismo e quindi chiaramente non ci sono interviste agli occupanti degli spazi di destra e c'è tutto un discorso comunque che riguarda proprio il ripensare l'abitare ma con dei insomma, dei paletti comuni, ma sono tante differenti le possibilità, ma quello dell'autonomia e dell'autoproduzione di energia e soprattutto di cibo biologico, ma senza etichette, è sempre proprio un fil rouge che guida le varie esperienze. Anche nelle occupazioni di città ho cercato di parlare poi di quelle che secondo me sono più interessanti, perché non riproducono un mero assistenzialismo, una sostituzione allo Stato, ma invece producono proprio capacità di mutazioni culturali e di ripensamento proprio dell'abitare collettivo in città. Andrea, il tuo libro che percorso sta seguendo e lo stai portando in giro? Ci dai anche dei riferimenti web per seguire la tua attività? Sì, guarda, allora il libro, io adesso è un anno che lo sto portando in giro, ha avuto una doppia, anzi una tripla, un triplo giro di presentazioni, nel senso che da una parte continuo ad andare a presentarlo in quello che è un po', io riconosco come la mia famiglia costruita, cioè quella del movimento politico italiano, e quindi ho girato tanto fra spazi di case occupate, librerie autogestite, e poi i festival invece dell'antropologia, sarò a Bologna al Festival dell'Antropologia, sono stato anche l'anno scorso a parlare di queste tematiche, e poi nelle librerie invece quelle insomma normali, che quando ti invitano è anche interessante andare a creare dei dibattiti nei luoghi dove solitamente di certe cose non si parla. Come riferimenti web, sicuramente il sito dell'editore, che è Milio Edizioni, che è un editore particolarmente interessante, che oltre a fare testi di antropologia come questi, fa tutto un discorso sul banditismo degli anni 70, insomma fa un sacco di pubblicazioni, e consiglio di andarlo a vedere, Milio Edizioni, .it. E poi c'è invece, per sapere un po' quello che scrivo e quello che faccio io, il mio blog, che è andreastaib.wordpress.com, dove metto quasi tutto, perché sono un po' lento con la tecnologia, ma cerco di seguire questa cosa. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la presentazione del tuo libro Abitare illegale, venerdì 13 aprile al BAZ, Biblioteca Popolare qui a Roma, in via San Tommaso d'Aquino 11A. Andrea, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, grazie a tutti e buona giornata. A presto.